Il giardino segreto. Il verde dentro le città. Di Roberta Pellegatta. Coltivare un orto domestico significa ridurre realmente le proprie emissioni di CO2 e la quantità personale di rifiuti prodotta. Luca Mercalli. Buona domenica, bentrovati. Questo primo appuntamento del 2020, dopo le puntate festive, sarà pieno di buoni propositi, naturalmente green. Tra poco organizziamo un orto domestico senza semi, senza nuovi vasi, senza grandi spazi e partendo dagli scarti. In sostanza faremo risorgere verdure e piante aromatiche da quello che butteremmo nell'umido. Si può fare. Poi non mi sono lasciata sfuggire il fatto che praticamente tutti in questo periodo abbiamo una stella di Natale in casa. Un altro buon proposito è di sicuro farla vivere a lungo e magari anche farla rifiorire, più tardi vedremo come. Ma subito parliamo dell'anno appena cominciato, il 2020, che è stato proclamato dalla FAO, l'Agenzia delle Nazioni Unite, l'anno internazionale della salute delle piante. La tutela del mondo vegetale deve scattare a livello planetario, anche perché difendere la salute delle piante significa difendere la salute umana, perché si sa, dai vegetali dipendiamo. È d'accordo su questo Maria Elisabetta Tagliati, Program Coordinator della FAO. Sì, è vero, non sono scindibili, infatti proprio per questo è stato proclamato il 2020 l'anno internazionale della salute delle piante ed è stato fatto dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, perché è un importantissimo lavoro, è un'occasione per la comunità fitosanitaria globale proprio di presentare il lavoro dinanzi a un pubblico più vasto e non dimenticare che le piante proprio costituiscono la fonte della vita, sono la base di una dieta sana, fonte di ossigeno che respiriamo, fondamentale per la biodiversità, per l'equilibrio ambientale, per il cambiamento climatico. Eppure le piante si ammalano. Siamo abituati a pensare alla salute umana o di salute animale. Consideriamo le piante sempre sane, almeno ad occhi che non sono abbastanza allenati, ma anche le piante si ammalano con gravi conseguenze. Quali sono i rischi maggiori che corrono le piante, che corre il regno vegetale in questo momento? Ma diciamo che con la globalizzazione, proprio il maggior movimento delle persone, dei prodotti, le condizioni appunto climatiche, sono stati importati vari parassiti, vari organismi che non erano presenti a livello nazionale in vari paesi e quindi portando parassiti molto pericolosi, tipo la xylella fastidiosa che attacca l'olivo. Conosciamo le conseguenze, il punteruolo rosso, la cimice asiatica, sono tutti insetti che vengono, batteri che arrivano da movimenti transfrontalieri. Molte persone non sanno che viaggiando con semi, con piante ornamentali, con cibo, possono importare e diffondere pericolosissimi parassiti per la produzione vegetale. Nonostante ci sia stato molto denaro speso per la protezione delle piante, ed è vero che la produzione del cibo è aumentata, è anche vero che le malattie diventano sempre più aggressive. Per esempio io mi occupo di questa malattia, il bruco della lafigma, che è la spodottera frugiperda che sta devastando raccolti di mais in Africa e in Asia, anche in Medio Oriente, molto pericolosa, alle porte dell'Europa. Tra l'altro lottare contro i parassiti significa allo stesso tempo dover rispettare l'ambiente, per cui ci deve essere diciamo una lotta ecosostenibile. Deve essere una lotta ecosostenibile, deve essere fatta in maniera internazionale, rafforzare tutti questi standard internazionali che sono diffusi dall'Istituto per la protezione delle piante, la Commissione che a base alla FAO sviluppano in continuazione standard internazionali per misure che siano sia preventive ma anche protettive e sono strumenti fondamentali per rafforzare tutte le capacità dei paesi a livello fitosanitario e per questo è stato proclamato l'anno della salute delle piante, per questo esiste la campagna dell'EPPO che è l'Organizzazione della Protezione delle Piante Europea e Mediterranea che insieme al governo irlandese e anche altri governi ha cercato di destare sempre di più l'attenzione pubblica e lo stesso lavoro l'ha fatto il governo finlandese in collaborazione con questo segretariato di base alla FAO per portare alla ribalta del grande pubblico il problema della protezione delle piante. Che sarà al centro dell'anno 2020 per cui dovrà esserci un'interazione tra istituzioni, governi, ma anche il mondo accademico, le istituzioni di ricerca, la società civile, il settore privato, ma per poi continuare questo lavoro negli anni successivi. Penso che questo sia un punto di partenza. Questo è un punto di partenza perché è stato stimato che ci sono dei danni ingenti, 40% di perdite di produzione ci possono essere con le infestazioni varie nel mondo, con un danno commerciale di molti miliardi. È fondamentale perché la salute della pianta rappresenta la salute del pianeta proprio direttamente. Da questo punto di vista, cosa possono fare i cittadini, i comuni, che peraltro sono spesso molto lontani dalla natura e dalle piante, ancora forse non hanno aperto gli occhi verso il mondo fondamentale che è appunto quello vegetale? Che cosa possono fare i comuni e i cittadini? Intanto sicuramente aprire gli occhi sull'evento internazionale proprio di questo anno importante, considerare che proteggere le piante vuol dire proteggere la vita, essere sempre consapevoli del fatto che quando si viaggia è molto rischioso portare con sé della frutta fresca, ortaggi, perché veramente possono portare dei parassiti letali o malattie delle piante per cui non siamo ancora preparati a lottare. Quindi anche il semplice turista che pensa di portare a casa un ricordo può davvero mettere a rischio le piante. Delle volte può anche capitare di tenere dei semi sotto le suole delle scarpe, per dire. Sì, anche. E tutto questo può portare veramente delle conseguenze incredibili alla salute delle piante. E poi bisogna sicuramente investire in ricerca sempre di più e regolamentare, perché la regolamentazione viene fatta a livello internazionale. Non c'è nessuno che si salva da solo, ci salviamo tutti insieme. È una comunità globale questa, perché essendo un problema trasfrontaliero tutti devono affrontarlo e avere dirette interazioni. Senta, tornando ai nostri viaggi quindi, cosa non bisogna assolutamente trasportare viaggiando in aereo e per quali tratte? Cioè, stiamo parlando solo di viaggi intercontinentali, quelli che sono rischiosi, o possono essere anche quelli più brevi? Dipende anche dalle condizioni agroecologiche, dalle zone, però in generale è sempre sconsigliato portare con sé semi di piante, frutta fresca, ortaggi, anche se noi sappiamo delle volte che ci vogliamo portare dietro il cibo di casa. E frutta secca è sempre molto sconsigliato, ed è anche sconsigliato avere delle piante ornamentali, ed è sconsigliato a tutti i livelli. Chiaramente sul terreno nazionale la conseguenza sarebbe assolutamente minore, ma comunque è sempre sconsigliato. E già questa è una raccomandazione che possiamo fare a inizio anno, è molto utile. La FAO ha organizzato anche un contest fotografico, piante sane, piante malate, quindi anche per tutti i radioascoltatori che vogliono partecipare. Sarà interessantissimo ricevere tante fotografie e immagini. Fotografie che in qualche modo possano simboleggiare la pianta nella sua migliore salute e la pianta malata. Sì, e le conseguenze anche per le persone. Per quanto riguarda il concorso fotografico, si trovano tutti i riferimenti al sito della FAO? Sì, trovate proprio il riferimento sul sito della FAO, fao.org, per il contest fotografico che è indetto dall'IPPC, che è la Commissione della Protezione delle Piante, della FAO e dal National Geographic. Grazie Maria Elisabetta Tagliati, coordinatrice di programma della FAO. La ringrazio moltissimo per averci interpellato e le auguro una buona giornata. Seeds of freedom. Time has come, seeds of freedom, life will overcome, seeds of freedom, all we need is song, seeds of freedom, life will overcome, small seed pitching, gardens of hope, everywhere just to share, gardens of hope. Possiamo curare la salute delle piante a partire da quelle che coltiviamo in casa nostra. Anche se non abbiamo un terrazzo o un giardino, possiamo far crescere, anzi direi risorgere in casa, verdure, tuberi e aromatiche utilizzando gli scarti dei vegetali. Sembra una magia, invece non lo è. Stella Bellomo, blogger e content creator, ci spiega come, mostrandoci concretamente i risultati sui social. Bentrovata Stella. Buon pomeriggio a tutti e buona domenica. Prendiamo spunto per la nostra chiacchierata da un libro di cui tu hai curato l'introduzione, un libro edito da Sonda dal titolo L'orto in casa dagli scarti dei vegetali. Gli autori non sono italiani, vero? No, gli autori infatti sono tedeschi. Tedeschi, quindi diciamo che nel nord Europa sono un po' più avanti di noi da questo punto di vista, del riutilizzo degli scarti vegetali per avere nuova verdura in casa nostra e basta un appartamento, eh? Assolutamente, sì. Diciamo che la cosa che a me ha affascinato e che mi è piaciuta tantissimo, dato che comunque anche io vivo in città da 8 anni, mentre prima vivevo in campagna, è stata proprio quella di rendere fruibile e dare la possibilità a tutti di avere un piccolo orto, sia in cucina su un semplice davanzale della finestra, oppure per chi ce l'ha anche su un terrazzo, un balcone, un piccolo spazio esterno, appunto di avere un mini orto, un orto domestico che però qualche soddisfazione la dà, assolutamente. Soddisfazione e stupore anche, soprattutto se abbiamo dei bambini in casa, ma anche gli adulti, eh? Nel senso che io mi emoziono ogni volta che qualcosa mi viene, quindi voglio dire. Anche io assolutamente, io per prima, cioè io ho iniziato dicendo che l'ho fatto e che lo facevo per i miei figli, ma in realtà, come ho scritto in diversi articoli, è un'esigenza prima di tutto mia. Io che sono cresciuta in campagna, che sono sempre vissuta in un paese, quindi in cui ho avuto a disposizione sempre la cascina dei miei nonni, un grandissimo giardino, orti, non solo quello di mia nonna, ma eravamo circondati da orti, perché nella campagna intorno a noi anche chi viveva in città aveva il nonno con l'orto comunque. Certo. Quindi per me è sempre stato naturale e normale andare giù, se mia mamma mi diceva Stella vai giù a prendere il basilico, tutte le erbe aromatiche, oppure vai giù dalla nonna, chiedile di prendere una melanzana, dei pomodori, cioè per me è sempre stato così naturale che non averlo, ecco, mi spiaceva, perché è un benessere prima di tutto per l'anima. E anche i cittadini che invece un orto non lo hanno mai avuto, io credo che sentano la mancanza. Bisogna provare. E noi proviamo a riutilizzare gli scarti, perché questo racconta il libro. Cioè non andiamo a procurarci dei semi, no, o cose del genere. Non andiamo a fare la spesa, come facciamo in città. Compriamo la nostra frutta e verdura molto spesso sotto celofan, la portiamo a casa, la mangiamo, ma poi possiamo riutilizzarla. Assolutamente. Per scarti che cosa si intende? Non si intende una parte che comunque non è commestibile o è da buttare, si intende una parte che normalmente non si utilizza perché magari è troppo dura, perché è troppo filacciosa, perché è una parte attaccata o vicino alla radice, cose di questo genere. Ti faccio l'esempio, adesso stiamo facendo germogliare e ricrescere sedano, porri e insalata. Allora, dell'insalata si usa tutto, volendo si può usare anche la parte, diciamo, dove c'è l'attaccatura della radice. Però se quella parte dalla radice a 4 cm in su si taglia come si fa normalmente, al posto di buttarla la si mette in un vasetto di vetro con un po' d'acqua e si aspetta qualche giorno cambiando l'acqua regolarmente. Ci sono, naturalmente il libro è fatto benissimo e spiega passo passo che cosa si deve fare, quell'insalata rigermoglierà di nuovo, potremo rinterrarla e avere un nuovo ceppo di lattuga che però continuerà a produrre ogni volta che noi lo taglieremo. È una capacità delle piante che si chiama totipotenza, questa, la capacità appunto di ogni cellula di rigenerarsi. Miracolo dei vegetali. Sì, uno dei tanti, esatto. Uno dei tanti. Quindi noi cuciniamo e mangiamo la verdura che abbiamo acquistato e, come nel caso dell'insalata, di cui insomma hai fatto l'esempio ora, utilizziamo proprio la parte che butteremmo nell'umido. Esatto, anche il sedano o il porro, la parte proprio finale del porro, quello dove ci sono tutte le radici, se la si mette in acqua, ricomincia, rigermoglia, si rigenera, dà vita a una nuova pianta. Se accanto alla biblioteca avrai l'orto, non ti mancherà nulla. Marco Tullio Cicerone. Non ci faremo mancare nulla. Tra poco nuovi consigli da Stella Bellomo per il nostro orto domestico a impatto zero e i suggerimenti di Davide Michelini per far durare a lungo, accanto alle nostre verdure in vaso, lo splendore delle stelle di Natale. Allora, il mattino all'oro in... Ah, dai, troppo banale. Il buongiorno si vede dal... No, questa è anche peggio. Che roba è? Cambiamo registro. 24 mattino vi aspetta con chiarezza per districarsi in un mondo complesso, obiettività perché il giusto confronto tra opinioni non macchi la realtà dei fatti e serietà, senza rinunciare alla giusta dose di ironia. Ah, certo, e senza frasi fatte. Sono Simone Spezia e vi aspetto dalle 6.30 con tutto quello che serve per sapere cosa si muove nel paese e fuori, analizzarlo e capirlo. Con me ci saranno Paolo Mieri dalle 7.30 nella rassegna stampa e Maria Latella dalle 8.15. Vi aspetto alla rassegna stampa per commentare con voi i quotidiani del giorno. Sono qua per fare domande, possibilmente quelle che fareste voi, ma anche per ascoltare le risposte, approfondire. Lo faremo, promesso, senza pregiudizi. Naturalmente su Radio 24. Il giardino segreto. L'orto in casa dagli scarti dei vegetali. Lo stiamo creando in questo appuntamento del Giardino Segreto in compagnia di Stella Bellomo, che ha curato l'introduzione di questo libro edito da Sonda. Non servono semi, come avete sentito usiamo gli scarti, e non servono neanche i vasi, ci piace il riciclo. Io consiglio di usare i vasetti di vetro, che normalmente anche quelli si butterebbero, che può essere il vasetto della marmellata, piuttosto che qualsiasi vasetto di vetro può andare bene, di riciclo, senza comprarne uno nuovo. Immaginiamo, non so, quello dei capperi. I capperi sottosale, una volta finito, al posto di buttarlo, quindi non occupano molto spazio, quindi si mette un pochino d'acqua, 3 cm di acqua nel vasettino, immaginiamo quello dei capperi, si mette all'interno il pezzo di, prendiamo l'esempio del porro, dalla radice, dove ci sono appunto proprio le radici, 3-4 cm, deve uscire un pochino dall'acqua, non deve essere immerso completamente. Si immerge il porro, che rimanga un pochino fuori dall'acqua, e si aspetta, cambiando l'acqua tutti i giorni, che inizi a germogliare, ma si vede subito, perché in poco tempo le radici si amplificano all'ennesima potenza e la parte sopra ricresce il verde del porro, cioè una magia, una vera magia. Poi dopo una settimana comunque che il porro è dentro all'acqua, cambiata regolarmente, nel libro spiega bene che è come l'acqua della vasca da bagno, non faremo mai noi il bagno per una settimana nella stessa acqua, è la stessa cosa, quindi è pochissima acqua tanto, e quell'acqua scartata si può usare per bagnare le piante che si hanno in casa, quindi si butta via quei 3 cm di acqua del vasettino, si cambiano. Ci vuole poi un attimo. Si possono prendere vasi che si hanno già a casa, oppure addirittura dei vasetti di latta per farli ricrescere, perché è anche bello averlo in cucina, quindi devono essere cose un po' carine, e le lattine sono anche carine da vedere. È vero, è vero. Dopo quanto tempo interriamo rispetto al vasetto d'acqua? Allora, per ogni ortaggio c'è una tempistica, ci sono alcuni ortaggi, faccio l'esempio dei topinambur piuttosto che della patata, che non vanno messi in acqua, quindi bisogna comunque sempre seguire le indicazioni del libro. Quelli che vengono messi in acqua, normalmente, se le condizioni sono favorevoli, possiamo interrarli tra i 5 e i 7 giorni dopo che sono stati messi nel vasetto d'acqua, quindi è una cosa veloce. E dopodiché no. In terra, nel caso ad esempio anche della lattuga o dell'insalata, non ci vuole moltissimo poi per assaggiare il nostro prodotto? È una cosa molto veloce. Se tutto è stato fatto nel modo corretto, le radici sono già pronte, quindi attecchiscono subito, l'insalata ricresce velocemente e si può continuare a ritagliare, a tagliare e a riutilizzare. La mia lattuga noi l'abbiamo riutilizzata, ogni ceppo di lattuga l'abbiamo riutilizzata 5 o 6 volte, alcuni 5, alcune 6, tagliandola, lasciando questo, tra virgolette, scato già nella terra, ecco, no? Certo. Quindi, mentre al supermercato non ti possono dare solo il pezzo tagliato, quindi ti danno tutto e quindi tu quella parte la butti, lasciandola nel vaso e tagliando solo la parte sopra della lattuga, quel cesto continua a rifare lattuga per altre 5-6 volte. Assolutamente da provare. Sono esperimenti da provare in casa, anche perché dietro questi esperimenti c'è una filosofia importante, quella del riutilizzo. Esattamente, quello del riutilizzo, del riciclo, dello zero sprechi. È una questione di attenzione e di abitudine. Tu hai citato il porro, il sedano, l'insalata, il radicchio, il topinambur, ma nel libro ci sono tantissimi esempi. Noi possiamo far crescere in casa patate, zenzero, barbabietola, menta, basilico e così via. Edizioni Sonda, l'orto in casa dagli scarti dei vegetali per una cucina a impatto zero. Ci ha raccontato questa sorta di magia Stella Bellomo, che questi esperimenti naturalmente li condivide attraverso i suoi social, quindi per vedere come sta andando avanti l'orto in casa di Stella Bellomo, Instagram. Allora sì, su Instagram o Facebook, su Instagram mi trovate con il mio nome e cognome, quindi Stella_Bellomo_, sì. Grazie per essere stata con noi. È stato un piacere, grazie a voi invece. Impariamo a rispettare quello che la terra ci dà, quello che la terra ci dà, quello che la terra ci dà. Noi siamo quello che mangiamo, il cibo non nasce nel piatto. Noi siamo quello che mangiamo, il cibo è un dono di questo pianeta, non va sprecato. Tutto l'amore che dai alla terra, lei te lo ridarà. Si prende cura di te, di te. Accanto all'orto corre un giardino, utilità e bellezza. E quanto sono belle le stelle di Natale. Lo so che ne avete in casa una, se non l'avete comprata ve l'hanno regalata. Una stima Coldiretti XE parla di 14 milioni di stelle di Natale acquistate in Italia nell'ultimo periodo festivo. È il caso di conoscere un po' meglio questa pianta tanto diffusa. A presentarci l'Euphorbia pulcherrima e a spiegarci finanche come farla rifiorire è Davide Michelini, vivaista e vicepresidente ICG. Allora, Prima cosa, ricordiamoci che la stella di Natale botanicamente è una pianta grassa, si chiama Euphorbia pulcherrima, detta anche poinsettia, ed è una pianta all'interno lattiginosa, essendo un'euforbia appartiene al genere delle euforbie cactus, che sono piante succulente, piante grasse. Quindi la prima cosa da tenere in considerazione è l'irrigazione, che deve essere veramente, veramente scarsa. Una stella di Natale ha veramente ridotte esigenze idriche, si va ad irrigare solo quando il terriccio è veramente molto asciutto. Quindi questa è la prima regola. Prima regola, non esagerare con le irrigazioni. Anzi, aspettare che il terreno si secchi del tutto. Esatto, evitare sottovasi pieni d'acqua. E un'altra, diciamo, utile raccomandazione è quella di tenere una stella di Natale piuttosto alla luce, in un ambiente luminoso, e se possibile magari evitare fonti di calore molto vicine, perché la stella di Natale è una pianta che ama il caldo, è originaria del Messico, quindi per crescere ha bisogno di alte temperature. In serra vengono scaldate molto le stelle di Natale per arrivare pronte alla fioritura, però poi quando arrivano in fioritura, dato che il fiore vero e proprio delle stelle di Natale è quello centrale, quello che noi chiamiamo fiore, quelli che ci sembrano petali in realtà sono bratte, sono foglie trasformate, una volta che la pianta è arrivata in fioritura non ha più una grande esigenza idrica e quindi in zone troppo calde della casa potrebbe soffrire un pochettino. Questa è la seconda regola. La terza, possiamo consigliare una giusta concimazione che la può far durare anche ben oltre il periodo di Natale. La stella di Natale può arrivare fiorita con le brattee ancora colorate di rosso tranquillamente fino al mese di aprile, al mese di maggio. Ci serve qualche istruzione per la concimazione. Nel dettaglio, concime liquido? Meglio concime liquido, assolutamente, io lo consiglio, sempre rispettando le dosi che sono indicate sulle confezioni, ne basta poco, piuttosto spesso. Quindi un concime liquido, diciamo, generico, possiamo usare? Sì, generico, meglio se un concime liquido per piante fiorite, a basse dosi, piuttosto spesso, diciamo che ogni 15 giorni noi possiamo concimare e la nostra pianta rimarrà sempre vigorosa. Poca acqua, poco concime, però costantemente. Ma c'è la speranza che una stella di Natale ci duri fino al Natale successivo? Allora, sicuramente sì, la pianta può durare. Non è così facile farla rifiorire nello stesso modo come abbiamo fatto noi floricoltori in serra. Questo perché? Perché la stella di Natale è una pianta fotoperiodica, brevi diurna, e adesso vi spiego cosa significa. È una pianta che fiorisce, va in induzione a fiore quando le ore di luce scendono sotto le 10 giornaliere, quindi deve avere almeno 14 ore di buio consecutive per andare in induzione a fiore. Questo di solito avviene verso la metà di ottobre, metà fine ottobre. In casa la luce elettrica, quando viene accesa, interrompe questa induzione a fiore e quindi è per questo che le stelle di Natale, che ci durano fino all'anno dopo, di solito non arrivano fiorite per Natale, magari fioriscono un po' dopo. L'ideale sarebbe posizionarle in una stanza vicino a una finestra in cui non abbiamo interferenze di luce elettrica e la stella di Natale possa compiere il suo ciclo fotoperiodico completo. Ma mi rendo conto che questo è molto difficile nelle nostre case. Quindi facciamola arrivare viva il più a lungo possibile. Possiamo dire di non essere così, essere un po' tolleranti con lei se non sarà perfettamente colorata al Natale successivo. Io voglio ricordare, per chi si fosse perso le nostre puntate precedenti, che la stella di Natale è particolarmente raccomandata, per esempio, da Rita Baraldi del CNR di Bologna, non solo per la sua bellezza, per il suo evocare le festività natalizie, ma perché è una di quelle piante per cui è stato provato scientificamente che sono benefiche per l'ambiente domestico, assorbono inquinanti, ci purificano l'aria, quindi bella e utile. Certamente, una delle tante piante che ci fanno bene, non sono solo belle, ma sono utili e raccomandabili anche in ambiente notturno, dove noi dormiamo, anche nella nostra stanza da letto, una stella di Natale può essere tranquillamente raccomandata. Un fiore è piccolo, ma la gioia che dona in un minuto non è di quelle cose che hanno un inizio o una fine. Paul Claudel. È tutto per oggi. Fiori e piante alla radio tornano domenica prossima alle 15.30. Ricordatevi podcast, potete riascoltare in ogni momento. E ricordatevi il mio indirizzo email se volete scrivermi: ilgiardinosegreto@radio24.it. Grazie a Valeria Bernardi che ha curato la regia. Una buona settimana da Roberta Pellegatta. A domenica prossima.